Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, cara Deborah. Buongiorno Mauro e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come andiamo oggi? Andiamo bene, anche se non ho compreso bene, mi associo al tuo saluto agli ascoltatori, ne rivolgo in particolare uno alle ascoltatrici ecco. da parte mia, naturalmente. E come non... l'ascoltatrice che ci ha mandato il saluto iniziale, no? Che è molto contenta che noi continuiamo a stare qua a presidiare il nostro programma, giustamente. E questo ci fa molto piacere, insomma. Non ho capito perché Marco Lombardo e tu avete scelto questa canzone, mi pare fosse un Paul McCartney, non proprio recentissimo. Probabilmente no, direi di no, anche perché io onestamente non sapevo che avesse intitolato una canzone junk, quindi spazzatura, rifiuti. Che probabilmente anche lui immaginava già il futuro in cui saremmo scesi a buttare la spazzatura come unica occasione per uscire di casa, forse era questo il motivo, esatto, per la sì, canzone. Forse. Sicuramente non pensava alla Banca Centrale Europea e alla iniziativa che ha preso nelle ultime ore, se vuoi te la racconto. Ah, ecco dov'era il legame, prego Deborah. Allora, c'è stata questa riunione in videoconferenza, naturalmente come tutti stiamo facendo, del direttivo della Banca Centrale Europea, che ha deciso che a partire da presto accetterà titoli sotto il livello di investimento come garanzia offerta alle banche per partecipare alle aste di rifinanziamento. È tutto molto complicato, ma questo che cosa vuol dire? Suona un po' come un monito sinistro nei confronti dell'Italia, che domani riceverà il giudizio sul debito sovrano da parte di Standard & Poor's. E siccome siamo poco sopra il livello della spazzatura, e allora la Banca Centrale Europea corre ai ripari e ha detto, visto che molte banche italiane hanno in portafoglio titoli di Stato italiani, nel caso in cui questi valgano come della spazzatura, per le banche italiane praticamente dovrebbe in teoria essere difficile andare a prendere finanziamenti dalla Banca Centrale Europea, perché hanno un collaterale non adeguato da offrire, che sono proprio appunto i titoli di Stato italiani. Allora la BCE dice no, da domani fino a settembre 2021 accetteremo come collaterale anche questi titoli. Non vorrei che tutto questo fosse un po' un segnale sinistro di quello che domani Standard & Poor's potrebbe decidere. Auspichiamo di no, ma magari più tardi abbiamo un ospite, forse gli possiamo chiedere anche che cosa ne pensa rispetto a questo. Sì, anche perché oggi è giovedì è il giorno, come sapete, di Investire Informati, o comunque oggi o in queste settimane potremmo anche ribattezzarla Spendere Informati, Guadagnare Informati, Mettere da parte Informati, se ne abbiamo. E comunque la vogliate vedere, insomma, ci occupiamo proprio oggi, come ogni giovedì, delle tematiche legate al denaro, al risparmio, agli investimenti e quindi ai nostri rapporti anche con i consulenti finanziari, ad esempio con le banche, con le poste. I numeri sono quelli abituali, ma li ricordo, mi fa piacere. 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta. Poi c'è il numero per i vostri SMS oppure WhatsApp, 349-238-6666. Cenno di assenso dall'altra parte del vetro, mi sembra particolarmente soddisfatto per questo mio rammentare i numeri, il sornione Andrea Roccabella. Scorgo alle sue spalle l'intrigante Elisabetta Baba Fusconi, che mi guarda da sopra la mascherina con uno sguardo, appunto, come ho detto, intrigante. Va bene, tutta questa premessa era per dire che forse è il momento del giornale radio del risparmio, cara Deborah. Sì, dopo salutiamo i nostri ospiti, molto volentieri. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Ancora notizie di risparmio, Deborah, mi pare di cogliere per aprire il nostro giornale del risparmio, giusto? Sì, dobbiamo parlare appunto del FIR, del Fondo Indennizzo Risparmiatori, lo sapete, quel fondo che è stato messo in campo dallo Stato per indennizzare tutti quei risparmiatori che hanno avuto la disavventura di investire in passato in azioni e obbligazioni delle banche risolte, poi delle venete, eccetera. Allora, le possibilità di fare richiesta di indennizzo a questo fondo era inizialmente appunto prevista tra il 22 agosto dello scorso anno e per 180 giorni appunto previsti dal decreto, ma siccome sono successe un po' di cose, praticamente con il decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo sull'emergenza coronavirus, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori è slittata al 18 giugno di quest'anno, quindi c'è un po' più di tempo. Ci sono state tante problematiche a parte il coronavirus, ma ci sono stati anche dei problemi legati ai malfunzionamenti iniziali appunto della piattaforma online per l'inoltro delle domande, un po' come è successo all'INPS il 1° aprile di quest'anno. E poi molte banche non si sono fatte trovare particolarmente pronte appunto nel fornire la documentazione necessaria da allegare a queste domande, e quindi pronti via abbiamo prorogato la scadenza, e quindi c'è un pochino più di tempo per le persone interessate per presentare questa domanda. E invece io devo dare una informazione sulle pensioni, perché le Poste Italiane ci hanno... Non dirlo con questo tono però, perché sennò si preoccupano. No, non è niente di preoccupante, le pensioni verranno pagate normalmente, non ci sono novità in questo senso. No, le Poste Italiane ci hanno reso noto che anche per quanto riguarda le pensioni del mese di maggio si andrà dal 27 aprile fino al 2 maggio con i pagamenti o gli accrediti. E allora ricordano le Poste che i cognomi dalla A alla B sono in calendario lunedì 27 aprile, dalla C alla D martedì 28, dalla E alla K il 29 aprile, L, P il 30 aprile, dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio. Tutte le informazioni in dettaglio naturalmente anche sul sito www.poste.it. Le Poste ricordano anche che per quanto riguarda i titolari della carta Postamat o carta libretto o Poste Pay Evolution, questi potranno prelevare i contanti dal Postamat, dai vari Postamat, cioè gli uffici, le distributori automatici di contante che sono presso gli uffici postali. Prego Deborah. Allora, l'ultima notizia che diamo, poi partiremo appunto entrando nel vivo del nostro programma. Peraltro stamattina abbiamo anche un dillo a due di denari che ci dà proprio un assist perfetto per far partire Investire Informati di oggi. L'ultima notizia che diamo riguarda un tema che noi seguiamo costantemente, cioè il contributo che potrebbe essere erogato dallo Stato ai collaboratori familiari o alle collaboratrici familiari che si trovano nell'impossibilità di lavorare in questo periodo, e anche le famiglie come datori di lavoro che li hanno assunti non riescono ad avere una gamma adeguata di ammortizzatori sociali appunto per sostenere questo periodo in cui queste persone non possono lavorare. Allora, da tempo si discute anche che tipo di soluzione economica trovare per queste persone. C'è una sorta di ristoro a cui il governo sta pensando, che potrebbe essere fissato fra i 200 e i 400 euro a seconda dell'orario di lavoro previsto dal contratto. Questa mattina ne scrive il Sole 24 Ore in un pezzo di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci. Oltre a questo contributo c'è anche una strada alternativa, così sta pensando, una sorta di cassa integrazione in deroga semplificata del valore medio di 400 euro che potrebbe addirittura raggiungere anche i 600 euro, una cifra che potrebbe essere calcolata in base a due criteri: le ore previste contrattualmente e le ore effettivamente lavorate. E quindi insomma è un work in progress anche per questa categoria, che è rimasta esclusa fino a questo momento almeno da tutta la platea di interventi economici che sono stati messi in campo appunto per tutti i lavoratori. Quindi seguiremo appunto anche noi con molta attenzione l'evoluzione di questa di questa trattativa sostanzialmente che si sta facendo, più che trattativa appunto questa soluzione che si sta trovando appunto per queste categorie di lavoratori. Ecco, con la mia abituale pedanteria che tu ben conosci, cara Deborah, io ricordo che però non c'è ancora niente. Quando vedremo in Gazzetta Ufficiale il provvedimento saremo lieti naturalmente di spiegarlo, come sempre ci accade. Tra l'altro potete invece oggi oggi, visto che hai parlato del Sole 24 Ore, trovare in edicola con il Sole 24 Ore un fascicolo di un'ottantina di pagine proprio dedicato ai decreti Covid, cioè il decreto Cura Italia, cosiddetto il decreto liquidità, con tutta una serie di chiarimenti che sono stati forniti dai nostri esperti, con i video forum, le indicazioni dei video forum che abbiamo dato in queste settimane e molto altro ancora, il tutto con il Sole 24 Ore in edicola, oppure anche per gli abbonati disponibile in formato digitale sul sito. Tutto ciò premesso, è il tempo di, cioè dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Pensate come eravamo messi male, come siamo messi male, come saremo messi male. È bastato un mese di non lavoro, eravamo tutti... Pensate come eravamo messi male, cioè vuol dire che le nostre attività produttive, sia in proprio che dipendenti, cioè erano... che eravamo tirati a come delle corde di violino, cioè tutti indebitati con mutui, finanziamenti personali, tutti a vivere comunque al limite delle nostre possibilità, a me compreso, e pensate, cioè veramente incredibile, cioè siamo tutti sull'orlo del precipizio. E Mauro, effettivamente questo è un tema sul quale abbiamo riflettuto molto. Noi abbiamo scoperto effettivamente come questa crisi abbia trovato proprio sprovvisti di liquidità per vivere serenamente per qualche settimana molte famiglie italiane, molte piccole imprese, e quindi proprio anche alla luce di quello che si è potuto riscontrare, probabilmente quando tutto ritornerà alla normalità con molta calma, dovremo ricominciare a fare o due chiacchiere con il nostro consulente o comunque nell'ambito del nostro nucleo familiare per capire come impostare diversamente le nostre strategie di risparmio e di investimento, perché nel caso in cui dovesse arrivare prossimamente un'altra crisi, anche meno importante di questa, dovremmo farci trovare un po' più corazzati forse, no? Che cosa ne pensi? Eh sì, perché effettivamente anche noi, appunto, come ricordavi, ci siamo domandati, ma questa grande liquidità che viene mantenuta sui conti correnti evidentemente non è espressione poi di una solidità, o almeno è espressione di una minore solidità rispetto a quella che pensavamo, perché altrimenti non ci sarebbero, non vedremmo ad esempio tutte queste richieste che continuano anche oggi, cara Deborah, come arriveranno i 600 sì. euro, diventeranno 800 euro, eccetera eccetera, insomma queste, questo tipo di richieste ci testimonia una volta di più che evidentemente siamo meno benestanti di come qualche dato macro riferito alla collettività faceva pensare. Ma tutto questo secondo me è un bel tema proprio da investire in formati. Allora, cortesemente Andrea, metteresti la sigla? Investire in formati. Allora, quest'anno molti amici ascoltatori risparmiatori a cui piace venirci ad incontrare al Salone del Risparmio non potranno venirci ad incontrare al Salone del Risparmio, perché come sapete questa manifestazione si sarebbe dovuta svolgere proprio pochi giorni fa, da martedì 20, no scusate, all'inizio di aprile, poi è stata rinviata a giugno per effetto appunto del coronavirus. Adesso sappiamo, e lo abbiamo appreso proprio da un paio di giorni, che invece questa 11ª edizione del Salone del Risparmio è stata direttamente posticipata all'anno prossimo, primavera 2021, da martedì 20 a giovedì 22 aprile, per cui è venuto a raccontarci tutto Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, che salutiamo. Galli, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Tra l'altro Mauro, possiamo, visto che è già collegato al telefono, salutare anche l'ospite che poi ci farà compagnia per il resto di Investire Informati. Vuoi fare tu in questo caso gli onori di casa, come ti piace dire? Ma molto volentieri, diamo il benvenuto, anzi il bentornato, a Simone Bini Smaghi, che è vice direttore generale di Arca Fondi SGR e che si fermerà con noi per tutta la puntata. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dottor Galli, niente, come le Olimpiadi di Tokyo, anche il Salone del Risparmio... Si licet parva, dicevano i latini, insomma, per comparare cose grandi, cioè il Salone del Risparmio, con cose minori come potrebbero essere le Olimpiadi, ovviamente sto scherzando, dicevo, anche il Salone del Risparmio 2020 diventa Salone del Risparmio 2021. Decisione sofferta, immaginiamo. Diciamo che abbiamo sperato fino all'ultimo di poterlo trasferire a quest'estate, a giugno, ma è chiaro che non possiamo immaginare di avere... più di 1000 ospiti dall'estero, tra relatori e persone che partecipano, e poi quasi 15.000 persone da tutta Italia, quindi è evidente che dobbiamo rinunciare, ma è solo una rinuncia parziale, perché per fortuna, così come le Olimpiadi vengono trasferite di un anno, ma nel frattempo gli atleti riprenderanno a gareggiare, ad allenarsi, Salone avrà tutti degli appuntamenti che si terranno online, ormai tutta la nostra vita è online, e quindi noi sappiamo che il Salone vive durante tutto l'anno, i 3 giorni in cui ci incontriamo a Fiera Amico, Fiera Milano, sono, diciamo, il punto di culmine di quel processo dove si passano informazioni, ci si incontra, ci si conosce, ma ci sono altri, molti altri appuntamenti, quindi quest'anno il Salone vivrà durante il 2020 anche di molti appuntamenti sul web. E poi naturalmente, ecco, ci sarà, sì, Deborah, il mese del risparmio, perché è ottobre, quello mica ce lo spostano anche quello per via del Covid, no, dottor Galli? Il mese dell'educazione finanziaria, infatti no, peraltro era un tema anche che aveva accolto, che il Salone del Risparmio aveva accolto fra le varie tavole rotonde appunto che animano generalmente questa kermesse, Galli. Ma direi che questi temi sono più che mai al centro di quello che è la nostra vita, perché immagino che molte persone che sono a casa abbiano avuto occasione di forse dedicare anche più tempo a ragionare dei loro risparmi, di come si investe, di come si muovono i mercati, di come funziona. E forse qualcuno giustamente sta anche pensando al fatto che chi guarda al futuro e chi guarda quindi al di là delle difficoltà, anche dell'incertezza del momento, riesce a vedere opportunità. Quindi i prossimi mesi saranno dei mesi importanti per ragionare sui propri risparmi, anche per cogliere delle occasioni, perché non dimentichiamoci che l'investimento è un processo, è una specie di disciplina mentale. Noi viviamo molto su quello che succede nel momento, sulle nostre emozioni, sulle sensazioni, anche sulle difficoltà, ma in realtà se riusciamo a proiettarci verso il futuro, cogliamo le migliori occasioni. E quindi in questo momento chi segue mercati, chi segue informazioni, se ha anche dei buoni consigli, quindi se ha un buon consulente al suo fianco e se conosce i prodotti, può cogliere delle opportunità. Nei prossimi mesi si potranno cogliere delle grandi opportunità. E noi vogliamo accompagnare questo processo, perché sostanzialmente l'investimento risparmio vive di informazione e di formazione. E tu guarda, Deborah, lo testimoniano anche le molte domande che ci stanno già arrivando, naturalmente, via SMS, WhatsApp, prenotazione al numero verde. Ci sono coloro che si ritrovano magari in questo momento con una notevole liquidità perché avevano disinvestito appena prima che succedesse tutto questo e adesso sono un po' in imbarazzo, quindi ne parleremo lungamente. Certo. Volevo girare al dottor Galli la provocazione del nostro ascoltatore di dirlo a due di denari, ma allora evidentemente non stavamo così comodi con tutti questi soldi, con tutta questa liquidità, se stiamo soffrendo così tanto, dottor Galli? O è la preoccupazione che ci ingigantisce, magari ci fa valutare un po' meno quello che abbiamo a disposizione? Qual è la sua opinione? Ma io credo che questa liquidità possa essere investita meglio. Noi, diciamo, gli italiani giocano molto in difesa, lo sappiamo, su tutti i fronti. Noi siamo anche, perché forse a differenza di altre culture, non abbia il sistema che sembra proteggerci, così come può essere la sensazione di uno svizzero o di un norvegese. Noi siamo molto lasciati alla fine a pensare a noi stessi, a livello familiare, a livello di quello che è il nostro lavoro. Quindi tendiamo ad essere molto protettivi. Questo spiega per quale motivo. Stiamo un po' peggiorando nel collegamento con lei, dottor Galli, le chiedo un attimo di pazienza, giro così proprio provocatoriamente a sorpresa la domanda a Binismaghi, qual è la sua opinione, dottor Binismaghi? Ma è sicuramente un punto di grande riflessione, perché comunque i dati rilevano che la liquidità nel sistema è elevata, quindi indubbiamente, e se ci confrontiamo anche con gli altri paesi occidentali, abbiamo livelli di liquidità molto molto più elevati. Adesso si tratta naturalmente di capire se chi chiama è in quella situazione, ovvero no, chiaramente, no? Quindi, certo. Posso anche dirle però quello che lei ha accennato è qualcosa di vero. Le posso dire che, per esempio, molte aziende che hanno comunque livelli di liquidità abbondanti, appena è iniziata questa fase negativa del ciclo, hanno chiesto alle proprie banche di avere ancora più linee di finanziamento disponibili, quindi forse c'è anche questa preoccupazione che comunque è meglio sempre avere più fieno in cascina, forse che è meglio e si è più tranquilli. E questo combacerebbe quindi con quello che ci raccontava Galli, Deborah, cioè sì. Giusto Galli? È un po' il proteggiamoci ancora un pochino di più magari, forse con un surplus di protezione. Esatto, dobbiamo imparare a credere più in noi stessi, nel senso che se agiamo informati, se ragioniamo su quello che facciamo, abbiamo obiettivamente ancora delle risorse di risparmio molto importanti, e questo è un momento in cui si può ragionare di investimenti con delle, appunto, con delle opportunità, perché se crediamo che il mondo sia finito qui, il mondo è finito qui, ma se, come immagino quasi tutti noi sappiamo bene che invece c'è molto da fare, questa correzione dei mercati è una grande opportunità. Mm-hmm. Volevo fare un'ultima domanda a Fabio Galli, poi lo salutiamo e andiamo alla nostra conversazione con Simone Binismaghi. Quale sarebbe stato, vogliamo ricordarlo ai nostri ascoltatori, il tema di quest'anno del Salone del Risparmio, e a questo punto, anche alla luce di tutto quello che sta accadendo, state pensando appunto ad un tema specifico per l'anno prossimo? Mi rendo conto che è assolutamente tutto prematuro, ma possiamo facilmente immaginare che questa crisi economica ce la trascineremo invece addosso per molti mesi, e quindi questo condizionerà anche la scelta dell'argomento trainante del Salone del Risparmio dell'anno prossimo, Galli? Ma certamente terremo conto degli insegnamenti di questi mesi, ma la verità era che il tema di quest'anno erano i tassi zero, cioè cosa vuol dire investire in un mondo tassi zero, che vuol dire spostare i propri investimenti sempre di più verso l'economia reale. Quindi come sappiamo, abbiamo investito per molti anni avendo dei rendimenti importanti sui titoli di Stato. Oggi, per avere un portafoglio diversificato, dobbiamo portare queste risorse verso le imprese, anche verso le imprese innovative più piccole. In realtà questo tema rimarrà con noi, anzi diventerà ancora più forte. Quindi io immagino che ad aprile del 2021 ci troveremo esattamente a ragionare di come portare sempre più i nostri investimenti verso l'economia innovativa, l'economia reale, la crescita della piccola impresa, lo sviluppo infrastrutturale del paese. E quindi i tassi rimarranno probabilmente molto bassi, non c'è inflazione. In qualche modo avevamo colto già quell'argomento, e questo argomento ci accompagnerà per tutto il prossimo anno. Grazie a Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. Allora, la notizia da cui siamo partiti è questo rinvio del Salone del Risparmio 2020, che non si terrà più a giugno ma si terrà invece nel 2021. Noi lo salutiamo, e adesso è il momento, cara Deborah, di dare le informazioni sulle borse, che mi pare siano un po' capricciosette anche oggi, anche se meno moleste di qualche giorno fa. Cioè, vedo delle lucine verdi, lucine rosse. Spiegaci tutto, tu come sai? Molto due di denari, una cosa seria, per i vostri soldi, non i nostri. Due di denari. Questo è il paese dei furbetti, non è che siamo messi male sui conti correnti, ci sarà molta gente che vive al limite, quello sì, ma c'è tanta anche piangeria, imprenditori che vanno a chiedere con dei 30, 40, 100 dipendenti che vanno a chiedere i 600 euro, cioè sono ridicoli. Ma no, non avete capito, non è che si investe male. Non si investe perché non ci sono risparmi, perché le persone comprano le macchine da 50.000 euro perché credono di potersele permettere. Si dimenticano che dopo aver preso i soldi ci sono le tasse da pagare, pensano che quei soldi siano loro, si indebitano, comprano quello che credono di potersi permettere perché non sanno fare i conti, e poi rimangono senza. Mauro, abbiamo sentito due posizioni molto estreme in termini di considerazione dei nostri ascoltatori, ma come sempre le verità stanno nel mezzo. Volevo partire con Simone Binismaghi proprio con una considerazione relativa alle aziende, perché Arca Fondi è un fondo di investimento, una società che gestisce fondi di investimento ed è un gestore molto attivo, quindi i fondi di Arca sono costruiti appunto investendo su società dei quali i gestori di Arca appunto conoscono direttamente vertici amici, manager, quindi c'è un contatto diretto proprio perché c'è una gestione attiva. E quindi, visto che Binismaghi, voi le aziende sulle quali investite le conoscete tutte direttamente a una, le volevo chiedere se ci poteva raccontare qual è il clima che state respirando appunto nel mondo imprenditoriale italiano. Chiaramente voi investite nelle società quotate che magari hanno una situazione diversa rispetto alle piccole e medie imprese che invece non si quotano e che vivono appunto una condizione evidentemente diversa. Però insomma, qual è il clima che in questo momento si può raccontare ai nostri ascoltatori? Sì, certo. Allora, io direi che le aziende, giustamente, che lei ha indicato, quelle quotate, quindi aziende medie, medio-grandi, sono giustamente preoccupate, e lo si può vedere questo soprattutto su quelle che sono le indicazioni, sulle prospettive. Molte aziende le hanno riviste, no? Quelle che sono definite le guidance, le hanno riviste proprio per adeguarle a questo nuovo contesto, quindi previsioni di crescita molto più basse e anche sugli utili. Addirittura rinuncia alle erogazioni dei dividendi, peraltro dico perché poco fa c'è stata Saipem che invece ha detto che lo mantiene per quest'anno, poco prima invece Moncler, una grande azienda, aveva detto che rinuncerà alla distribuzione. Questo tanto per raccontare le ultime aziende, appunto, che sono molto grandi ovviamente, ma che hanno detto qualcosa in questo senso. È un'indicazione molto importante, perché questo aspetto qui, io credo che entriamo in uno scenario in cui molte imprese, molti imprenditori cercheranno di salvaguardare soprattutto la forza lavoro. Quindi questa qui, allora, prima viene la forza lavoro, poi paghiamo e remuneriamo il capitale. È un'indicazione, secondo me, estremamente rilevante dal punto di vista sociale. Tornando a quello che stavo dicendo, appunto, sulle guidance e le previsioni, alcune aziende hanno detto non le facciamo le previsioni in questo contesto di eccessiva incertezza. Quindi addirittura hanno detto aspettiamo di vedere quando riprenderemo l'attività cosa succederà. L'altra cosa che viene fuori parlando con le aziende è che in questa crisi hanno visto gli intermediari finanziari molto più attenti e più vicini che non nella crisi precedente, e questo devo dire che è un elemento molto importante, perché si critica spesso molto le banche, ma devo dire che quasi tutte le aziende stanno dicendo le nostre banche sono state subito vicine, ci hanno chiamato, si sono rese disponibili, e come ho detto casi anche di aziende con discreti livelli di liquidità hanno chiesto affidamenti ulteriori che sono stati concessi. Quindi questo è molto importante. Guarda Deborah, vorrei leggerti, proprio per agganciarmi a quanto state dicendo con il dottor Binismaghi, questo messaggio che è arrivato via WhatsApp al 349-238-6666 da un bancario, non un banchiere ma un bancario, che ci dice: lavoro in una grande banca, oggi siamo alla quarta modifica dell'iter di trasmissione di domanda per accedere ai 25.000 euro. E qui, insomma, ne parliamo domani di questa vicenda di 25.000 euro con la trasmissione di domani. Non è per nulla semplice essere in prima linea, però cerco di fornirvi un piccolo quadro della clientela, e questa è la parte che vi volevo sottoporre. C'è il cliente in effettiva difficoltà, c'è il cliente consigliato dal commercialista che vuole rinegoziare debiti precedenti a tassi più favorevoli, e poi c'è il cliente e con la garanzia dello Stato C'è il cliente in difficoltà già prima del coronavirus e che con i 25.000 euro non risolverà i suoi problemi. In percentuale, dice, il primo e il terzo quasi si equivalgono. Mi viene da pensare che evidentemente una metà invece dell'altra delle richieste sia quella del consiglio per rinegoziare debiti precedenti. Questo tipo di valutazione, che non è assolutamente scientifico, è solo come dire, il polso dato da un nostro ascoltatore che lavora per una banca, o non dico in banca perché magari in questo momento è in smart working, ma lavora presso una banca, ci ha dato questa fotografia. Cosa ne dice Binismaghi? Ma guardi, questo è un tema secondo me rilevante. Questa è una caratteristica un po' di come noi e chi ci governa dispone i provvedimenti. Siamo forse al quinto, sesto provvedimento di manovra fiscale per aiutare imprese e risparmiatori, e come viene detto si continua a cambiare tutte le regole precedenti. Quindi uno che si stava preparando la regola precedente scopre, quando viene a presentare la documentazione, che è stata cambiata ulteriormente, e tutta questa attività amministrativa e burocratica viene scaricata sugli intermediari, sulle banche, che passano il tempo quindi a cercare di decifrare e capire cosa devono fare, e mentre stanno predisponendo scoprono che poi c'è un provvedimento che le ha ulteriormente modificate. Questo è un punto, secondo me, estremamente rilevante. Dobbiamo farla finita con tutti questi provvedimenti complicati, avere cose semplici. Insomma, non è possibile che in Svizzera o in Germania in 48 ore imprese e persone senza occupazione hanno avuto sul conto, no, i soldi richiesti. Quindi la procedura era semplice e chiara, non si riesce a capire perché da noi non si possono fare le stesse cose. Forse perché mettiamo sul piatto della bilancia un debito pubblico molto diverso da quello tedesco e quindi i margini di manovra quando riguardano noi sono sempre casualmente più ristretti, nonostante l'emergenza che ha una caratteristica molto diversa, nonostante la crisi molto diversa rispetto al passato, non pensa Binismaghi che possa esserci anche questo? No, io non penso questo, e penso invece che dovremmo avere le idee molto più chiare su cosa è urgente subito, no, per dare respiro e liquidità alle nostre imprese, che è una delle cose, è la nostra ricchezza, no? Le nostre imprese, le nostre eccellenze a livello italiano e mondiale. L'altro è come si esce da questa crisi e qual è la fase 2, come si fa a recuperare attività, domanda, no, nell'economia. Sono due cose molto distinte. La prima è urgente, deve essere semplice ed efficace. Non è, è vero che siamo un paese indebitato, ma ricordiamoci, visto che spesso si parla male dell'Europa, che c'è un'istituzione fondamentale, la Banca Centrale Europea, che compra continuamente tutti i giorni i nostri titoli. Sì. E quindi possiamo tranquillamente finanziarci. Basta essere, anzi, si è detta anche disponibile anche ad accettare, come dicevamo prima, titoli di debito che avranno una reputazione un po' meno vincente del passato, come è stato annunciato nelle ultime ore. Ecco, questo no, ha già messo le mani avanti per qualsiasi situazione, visto che ho sentito parlare prima di agenzie di rating, no? Visto che comunque anche la Grecia ha un rating che non è investment grade, e quindi questo vuol dire quanto sono andati avanti. E per fortuna è la nostra ancora di salvezza, cioè noi possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma oggi senza la Banca Centrale Europea che interviene sul mercato avremo sì serie difficoltà ad aiutare il paese, le famiglie e le imprese. Deborah, dottor Binismaghi, abbiamo un ascoltatore che è in un caso invece quasi anomalo, perché Roberto, che ci chiama dalla provincia di Monza e Brianza, se capisco bene, si trova in una fase di liquidità, cioè ha disinvestito e quindi ha una cifra ferma. Quindi si chiede: e adesso che devo fare? Aspetto, compro, investo, dove vado? A chi chiedere? Roberto, buongiorno. Buongiorno. È così, ho riassunto correttamente? Sì, bravo. Ho disinvestito delle azioni circa 25 giorni fa, pentendomi purtroppo, perché dopo, il giorno dopo, sono ripartite e di conseguenza ho una cifra abbastanza grossa. Ferma. E volevo sapere se c'era il momento di investire in qualche altra cosa o se no, piuttosto di tenerli lì fermi, io non posso tenerli a casa mia. Questo forse è quasi un provvedimento eccessivo, però chiediamo all'esperto, dottor Binismaghi. Allora, tenerli a casa mia non credo che sia una buona soluzione. La buona soluzione è farsi consigliare da un buon consulente come costruire un piano di investimento. Non ho capito bene cosa è successo, se ha disinvestito e poi quello che ha disinvestito, sì, è risalito. Credo che abbia disinvestito in una fase, in una delle prime fasi di calo brusco, come anche drammatico, molti, per dirla all'inglese. Esatto, però si è pentito perché poi sì, le azioni, quindi, magari quelle azioni sono anche risalite, ecco, e hanno recuperato tutto. Questo dà spunto per due o tre considerazioni molto semplici. Uno, non bisogna farsi prendere dall'emotività, dalla paura. Due, i movimenti sui mercati finanziari sono stati velocissimi e intensi, non è mai successo nella storia di vedere dei movimenti in un senso, quindi nella discesa, così rapidi e intensi in pochissimo tempo, ma anche i recuperi sono stati molto veloci e molto intensi. Quindi fare da solo e agire da solo su questi mercati con questa volatilità è pericolosissimo, e quindi il caso del risparmiatore ne è un esempio: si rischia di vendere e di andare a intaccare sul proprio portafoglio, poi realizzare delle perdite, no? E basta mancare un giorno, una settimana, che queste perdite potevano essere ridotte. Quindi secondo me bisogna fare buona e sana pianificazione usando gli strumenti che vengono messi a disposizione e costruire soprattutto insieme a un consulente un piano di investimenti, la pianificazione, perché se no ci facciamo prendere dall'emotività, cioè ci facciamo prendere da quello che è il quotidiano, che francamente siamo bombardati di notizie che un giorno sembrano la fine del mondo, il giorno dopo no, c'è uno spiraglio, uno dice c'è la luce in fondo al tunnel, no, c'è la pandemia, siamo chiusi ancora per altri 2 mesi. Difficile orientarsi, no? in questo contesto. Se è difficile orientarsi per i mercati, figuriamoci se no, quanto è difficile per i risparmiatori. No, vi fermo la notizia sul petrolio, è arrivata sì. Così all'improvviso scopriamo che siamo no, inondati dal petrolio e qualcuno lo scopre. No, non è che lo scopriamo, è da mesi che sappiamo che c'è troppo petrolio in giro, che stava circolando questo petrolio, ci sono centinaia e centinaia di navi cargo con pieni di petrolio che non sanno dove attraccare, quindi immaginatevi, e non c'è più spazio per poterlo immagazzinare, quindi non c'è da meravigliarsi se il petrolio no è crollato. Poi il fenomeno di andare con un prezzo negativo è dovuto a una scadenza tecnica finanziaria del futures che è inutile stare a spiegare. Guardi, però domani poi nella trasmissione di domani faremo anche una magari una puntatina sul petrolio, sai Deborah, ne approfitterò perché sì? So che tu domani hai un impegno e non potrai essere con me. E quindi parlate di temi di maschi, di macchine, sì, di le automobili, carburanti, il calcio, certo. E anche un po' le ragazze. Adesso parliamo del traffico però. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Due di denari. No Deborah, la verità non sta nel mezzo, è proprio così come hanno detto i precedenti ascoltatori della vostra trasmissione, è proprio così, c'è una piangeria generale, ma assolutamente non è così la situazione. Allora, il tema della piangeria, noi effettivamente un pochino con Mauro l'abbiamo anche detto nei giorni scorsi, eravamo rimasti molto colpiti, anzi mi attribuisco io questa considerazione perché Mauro era stato più elegante, dal fatto che molto attirati da questa improvvisa generosità d'emergenza dello Stato, molti ovviamente si sono subito affrettati, magari anche con delle attività più o meno solide, ad andare a chiedere per esempio l'indennità di 600 euro nel caso si avessero le caratteristiche, e però insomma queste opportunità ci sono, eleganti o meno che siano, le persone chiedono. A me quell'aspetto lì aveva molto colpito, infatti con Mauro ne abbiamo parlato spesso, c'è chi si lamenta, c'è però anche tanta gente che è in oggettiva difficoltà. Noi torniamo però stamattina a concentrarci sulla propensione al risparmio, come potrà essere rivista e corretta alla luce di quello che sta accadendo. Sicuramente Mauro, riallacciandoci alle considerazioni dell'ascoltatore precedente, quello che possiamo suggerirgli di fare adesso, e credo che Simone Binismaghi sarà d'accordo, è cercare di capire questa improvvisa bella liquidità che si trova sul conto corrente frutto di un disinvestimento del quale si è pentito. A questo punto dovrà appunto fare 2 chiacchiere con il consulente e cercare di stabilire che cosa serve questo denaro e di conseguenza ripianificarlo anche in termini di investimento sulla base degli obiettivi che deve raggiungere. Binismaghi, cosa ne pensa? Assolutamente. Io penso che sia fondamentale avere ben in mente chiari, no, quali sono gli obiettivi e fare la sua pianificazione. Come abbiamo detto, si sta investiti e poi si disinveste il tutto, ma non è vero. Abbiamo bisogno della liquidità perché sappiamo che nei prossimi 2 anni avremo bisogno e necessità di fare degli investimenti, delle spese, no, per la famiglia, ma una parte, no, del proprio capitale disponibile può avere un orizzonte temporale più lungo, 4 anni, 5 anni, 8 anni, 10 anni, no? E quindi può essere investito. E questi, come ha detto prima Fabio Galli, sono sicuramente momenti per iniziare a fare dei ragionamenti e con gradualità iniziare a fare, no, degli investimenti regolarmente sui mercati. Anche perché parliamo spesso di azioni, ma ci dimentichiamo, mi permetto di dire, che anche sui mercati obbligazionari i rendimenti sono saliti in maniera significativa. quindi anche degli strumenti obbligazionari che hanno anche orizzonti temporali più brevi sono in questo momento molto interessanti. Abbiamo rendimenti che sono molto, molto più alti di quelli di solo 3 mesi fa. Allora poi quando ci accorgiamo, no, fra un anno che i rendimenti saranno calati nuovamente dappertutto, che questa poi era una bella occasione, perché i tassi rimarranno a zero, le banche centrali continueranno a dare liquidità per tantissimo tempo e quindi l'alternativa sarà poi, no, strumenti che rendano lo 0,5, lo 0 o se no tutta la struttura, no, del debito tedesca che oggi ha rendimenti negativi, cioè paghiamo, il risparmiatore paga per comprare dei titoli del debito dello Stato tedesco, paradossale. Il costo della tranquillità che però risulta effettivamente, come dice lei Bini Smaghi, un po' paradossale, un po' troppo costosa questa tranquillità, mi verrebbe da dire, è così. Lo so, però è l'azione della Banca Centrale Europea, questa è lo specchio di quello che sta facendo la Banca Centrale Europea, spingere a ribasso questi strumenti di debito per non farli investire ai risparmiatori e spostare, no, gli risparmiatori a fare investimenti con orizzonti più coerenti, come stavamo dicendo. Avete trattato, prima si è parlato di mobilità, no, nello spot che ci ha preceduto. Questo è un tema, per esempio, interessantissimo. Proprio questa fase di lockdown fa capire in una città come Milano come l'aria è diventata più respirabile. Allora perché non far partire un grande progetto, no, di mobilità elettrica, mezzi pubblici, motorini, auto, un grandissimo progetto per il paese che ci farebbe bene alla salute di tutti e quindi credo che combatteremo il Covid-19, no, in maniera molto efficace e potremo dare respiro a tantissime imprese italiane che sono coinvolte in questo settore e che fanno fatica a reperire capitali perché devono fare grandi investimenti. Abbiamo delle eccellenze anche nel settore elettrico, auto e moto, componenti, che potrebbe essere per esempio un grande volano di crescita per il futuro, ma parliamo di anni e anni e anni, no? Questo è un tempo. Queste sembrano un po' delle raccomandazioni anche per settori promettenti, che Deborah. Esatto, qualcuno degli esatto. ascoltatori dice, ma comprare qualche cosa che investe nel petrolio, nel senso, abbiamo sentito anche nel tuo aggiornamento dei mercati finanziari, ma sì. è molto poco valutato in questo momento il petrolio, anzi sì. abbiamo il problema inverso. Però appunto esatto, qualche ascoltatore chiede, crolla. Forse qualche strumento, magari ETF ad esempio, potrebbe essere l'ideale. Non so cosa ne pensi tu e cosa ne pensa Simone Bini Smaghi. Sicuramente dobbiamo tenere conto che c'è questo gravissimo, enorme squilibrio fra domanda ed offerta che genera forte volatilità sui prezzi ed un andamento molto anomalo e bizzarro che non si era mai visto, per cui se siamo in grado di sopportare questi andamenti che sono totalmente imprevedibili, allora ognuno può fare quello che vuole. E poi sul tema dei settori sì, è molto interessante sentire l'opinione del gestore, perché tenendo da parte la fondamentale questione dell'investire secondo una corretta pianificazione, è chiaro che questa fase economico-finanziaria totalmente inedita e sicuramente molto preoccupante per gli investitori professionali apre anche delle opportunità di investimento. Lo dicevamo spesso, lo abbiamo detto spesso in questi giorni, lavoriamo tutti in smart working e tutti siamo attaccati davanti al nostro PC utilizzando queste piattaforme per fare delle videoconferenze. Questo è sicuramente un settore che sarà destinato ad un'enorme crescita. Bini Smaghi, tanto per citarne uno, ma andiamo anche un po' ai tradizionali, la manifattura, il finanziario, come si muoveranno a livello settoriale i mercati? Ma sicuramente ci saranno dei settori che usciranno vincenti, no? da questa vicenda, come abbiamo detto, il discorso dell'auto elettrica, la salute, il farmaceutico, l'ambiente, ma soprattutto la tecnologia e il digitale. E qui credo che, come lei ha indicato, sono due cose estremamente rilevanti. Lo smart working sta facendo vedere che si può lavorare bene da casa. Io lavoro da casa e lavoro molto di più di quando ero in ufficio, quindi questo sta a dimostrare che la produttività sale. Questo sta a dimostrare che il paese ha bisogno di investimenti nel settore tecnologico. Anche questo è un altro filone, è un altro progetto. Stiamo parlando qui, no, di fibre, cablare il paese, lo dobbiamo fare, lo fanno due società, lo fa una società, ma qui dobbiamo fare gli investimenti e portarli avanti in maniera seria e permettere a tutto il paese, no, di lavorare seriamente. L'altro è la digitalizzazione. Il digitale è una grande rivoluzione. E parlando proprio di risparmiatori, noi cosa vediamo? I nostri risparmiatori che sono digitalizzati, ovvero che sono registrati e possono vedere e monitorare la loro posizione, stanno affrontando questo periodo in maniera molto molto più serena. Non sono lasciati persi un po' in mezzo al mare, non agiscono in maniera scoordinata, hanno tutti i giorni un aggiornamento sulla loro posizione, hanno un flusso di informazioni che gli vengano trasmesse, no, da una società come la nostra, ma la fanno anche altre, no, che gli permette di stare sereni e di comprendere in mezzo al caos di notizie e di informazioni, no, come si devono interpretare e leggere e come soprattutto evitare di fare degli errori, no, perché si è presi dalla propria emotività, guardiamo al breve, ci dimentichiamo che ad esempio gli Stati Uniti hanno avuto la più lunga crescita economica, no, da quando sono rilevati i dati statistici, oltre 10 anni di crescita economica. Le fasi di crescita, le fasi positive dei mercati sono molto più lunghe e numerose delle fasi negative, non ce lo dimentichiamo mai. Lei ha toccato un aspetto che era stato ricordato anche da molte delle nostre pillole che abbiamo chiesto a diversi consulenti finanziari, cioè stare accanto ai clienti in questo momento, non solo, aveva detto più di uno, non solo ai clienti quelli importanti, quelli con portafogli robusti, ma un po' a tutti i clienti, quindi essere anche presenti, farsi sentire, scrivere loro, condivide questo approccio, mi pare di capire. Assolutamente, quello che noi facciamo tutti i giorni, le dico che io tutti pomeriggio parlo a centinaia e centinaia di consulenti che operano nelle banche proprio per invitarli a essere quotidianamente vicini, soprattutto in questi momenti, ai loro clienti, dandogli strumenti, elementi, argomenti, suggerimenti, tutte queste cose qua. È fondamentale, il cliente non si deve sentire da solo nelle fasi di difficoltà, nelle fasi in cui ha delle paure addosso, comprensibilmente, perché tutti siamo, no, preoccupati e disorientati. Ma poi dobbiamo cercare di ragionare, noi dobbiamo aiutare i risparmiatori, no, a non fare errori, come abbiamo sentito, no, ma invece a essere sereni e calmi, perché come ho detto i cicli positivi dei mercati come dell'economia sono molto più numerosi e molto più lunghi. Questo è un momento per ragionare, verificare che cosa ha avuto il portafoglio come perdite e poi ripianificare col consulente, farsi dare dei consigli, dei suggerimenti per ragionare e impiegare bene la liquidità. Se un'azienda sana e valida valeva 100 all'inizio dell'anno e oggi vale 50, beh, sicuramente è un buon momento per comprarla, forse, no? È interessante. Allora, abbiamo così esaurito, cara Deborah, il tempo a nostra disposizione. Ringraziamo bene Simone Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca Fondi SGR. Vuoi salutarci? Grazie, perché tu poi sarai di nuovo, sì, in onda lunedì, giusto? E io sono in onda lunedì e quindi mi prendo questa pausa per essere bella tonica a partire dall'inizio della prossima settimana. Sempre da casa, però, naturalmente. Ah no, aspetta, lunedì io vengo in redazione perché devo fare anche Focus Economia. Oh, caspita. Ma allora ti aspettiamo a braccia aperte. A lunedì, bene, invece, 2 di denari, a domani. A presto.